a tema Messina Denaro è il boss, l'ultimo stragista, latitante, super latitante di Castelvetrano, trapanese, condannato a svariati ergastoli, era già stato condannato in via definitiva per gli attentati del 93, condannato in primo grado anche per le stragi del 1992, uno degli autori del delitto del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bimbo del collaboratore di giustizia sciolto poi nell'acido dopo 2 anni di prigionia, era ricercato da 30 anni, quindi parliamo di uno che secondo gli investigatori, secondo i collaboratori di giustizia che ne hanno parlato di lui, che hanno raccontato di lui, della sua latitante protesta, era il custode dei segreti delle stragi di Stato e rapporti alti ed altri con personaggi oltre Cosa Nostra, quindi una figura sicuramente molto importante, a tutt'oggi si poteva considerare come il padrino più importante in libertà della mafia. Insomma. Visto che la latitanza è durata 30 anni, come è potuta durare così tanto? Ne abbiamo avute tante di latitanze longeve, questa non aveva ancora battuto il record di Bernardo Provenzano, che è arrivato a 38 anni, invece aveva battuto Torrina, di cui ricorreva proprio ieri il trentennale dell'arresto. Com'è possibile? Gli investigatori, magistrati della Procura di Palermo, parlavano di una rete di protezione molto importante fatta di uomini della finanza, uomini della massoneria, uomini anche di politica, quindi una latitanza protetta grazie a rapporti, come diciamo prima, di altissimo livello con gli ambienti soprattutto del trapanese. Questo era quello che emergeva dalle varie indagini. Certo, negli ultimi anni le forze dell'ordine avevano sempre di più stretto la morsa attorno al latitante, arrestando svariati fiancheggiatori. Negli ultimi mesi c'erano stati degli importanti arresti, tra cui un soggetto che in passato era emerso essere uno dei suoi fedelissimi, Franco Luppino, e magari proprio da quel tipo di indagine, magari poi lo scopriremo, magari quando ci sarà la conferenza stampa, se non ottenute importanti informazioni per arrivare alla cattura di oggi. Nella sua latitanza è stato registrato, diciamo così, anche all'estero, in Spagna. Oggi però l'arresto è venuto a Palermo, sostanzialmente incastrato per motivi di salute. Questo è il dato più inquietante. La prima cosa è il fatto che appunto viene arrestato in Sicilia, a Palermo, dove, contrariamente a quanto magari molti dicono, sostengono, lui a Palermo non faceva molti affari. In realtà ha dimostrato di avere contatti strettissimi con diverse famiglie mafiose qua del Palermitano, e addirittura Messina Denaro negli ultimi anni era emersa anche una sua condanna a morte nei confronti di un magistrato come Nino Di Matteo, consigliere superiore della magistratura oggi e PM di punta del processo relativo al Stato Mafia. È stato preso in una clinica alla Maddalena, in centro, a Palermo, motivi di salute. Questi motivi di salute, che tra l'altro erano stati segnalati da un soggetto che aveva favorito la latitanza dei fratelli Giuseppe Graviano, intervistato qualche tempo fa, aveva dichiarato addirittura che stava molto male Messina Denaro e che molto probabilmente per questa malattia si sarebbe fatto prendere. Questi sono degli elementi che stiamo cercando di ricostruire pezzo pezzo, che sono comunque senza sminuire il grandissimo lavoro delle forze dell'ordine, insomma, si capirà bene che cosa è accaduto. Assolutamente non ho dubbi che è un'operazione di polizia importante quella di oggi, ma certamente da qualche tempo c'era chi diceva appunto che era molto malato e che aveva delle difficoltà sempre più gravi nel muoversi, nel portare avanti così gli affari. Questo è un dato che è molto inquietante e bisognerà certamente capire. L'arresto di Messina Denaro che colpo infligge alla criminalità organizzata nel nostro paese? Ma in questo momento sicuramente è un colpo importante. Non mi sento personalmente di dire che è un colpo decisivo, perché la mafia è un fenomeno che esiste da oltre 150 anni e cambiano le teste, ma ancora non è stata sconfitta. Abbiamo visto i vari Rina, Provenzano, Matteo Messina Denaro oggi. Sicuramente è importante che è stato arrestato l'ultimo stragista, l'ultimo superlatitante in libertà. Detiene tantissimi segreti, ecco, è su questi che bisogna andare a colpire, oltre che sui denari tanti che Messina Denaro e gli altri mafiosi ancora oggi hanno. Per dare un esempio, abbiamo arrestato Rina 30 anni fa, a tutt'oggi non è stato ancora mai trovato il tesoro di Totò Rina.